Il piano è stato accettato e Hamas quindi ha firmato la prima parte del piano, accettando quindi di restituire tutti gli ostaggi vivi o deceduti ancora in suo possesso come condizione in cambio del cessate il fuoco nella striscia. In questo momento la mia opinione è che ci sia da festeggiare solo questo, il cessate il fuoco. Voglio ricordare alcuni numeri. A Gaza oggi il 92% delle abitazioni è completamente distrutto, sono 55 milioni le tonnellate di detriti, 40 miliardi di armi venduti dagli Stati Uniti a Israele dal 7 di ottobre 2023, 1.900.000 palestinesi che hanno dovuto abbandonare le loro case, 518 le scuole distrutte o danneggiate, 7 i veti posti dagli Stati Uniti a cessate il fuoco in sede ONU, 99% le famiglie che non hanno sicurezza alimentare, 27 giornalisti che sono stati uccisi, 790 gli attacchi a ospedale e personale medico, 67.000 le morti confermate a fronte di 186.000 stimati secondo il Lancet e nessuna richiesta che Israele si assuma la sua responsabilità in vista. Niente di tutto questo deve essere dimenticato. Israele arriva al tavolo negoziale senza che ci sia mai stato il minimo ravvedimento nella sua condotta genocidaria dopo 2 anni di inazione, quando non addirittura di attività facilitazione da parte dei governi occidentali, tra cui quello italiano. Non siamo davanti a un piano di pace, ma a un diktat, a un piano immobiliare, anzi, che lascia totalmente inaffrontate le questioni che hanno reso la vita dei palestinesi invivibile da ben prima del 7 ottobre 2023. L'occupazione, l'apartheid, la sistematica discriminazione legale che sono proprio fondative del progetto tecnocratico sionista, sin da prima della deriva suprematista a cui assistiamo ora. E se niente di tutto questo viene affrontato politicamente, le reali prospettive di pace sono fragili ed è giustificato lo scetticismo nei confronti della possibilità della tenuta di questo piano. Quanto è stata importante la mediazione di Qatar, Egitto e Turchia nel raggiungimento di questi accordi? Sul ruolo di Qatar, Egitto e Turchia, ovviamente, data la riservatezza dei contatti, posso rispondere a questa domanda con una valutazione generale, e cioè che sicuramente ciascuno di questi attori sa bene quanto importante sia avere un ruolo fattivo nel processo che si sostiene dovrebbe portare ad un nuovo ordine medio orientale caratterizzato dal disinnescamento della questione palestinese. Mai come ora la Palestina è al centro delle politiche globali ed ovviamente regionali, un momento sicuramente molto molto delicato anche per i regimi medio orientali che dovranno gestire un eventuale impatto domestico dei loro sforzi per la normalizzazione con Israele. Possiamo fidarci che sia Hamas che Israele rispettino i punti degli accordi? Trovo anche molto difficile dire in questo momento quanto sia probabile che le parti si attengano agli accordi, visto che diversi aspetti non sono chiari o comunque non sono stati resi noti. Teniamo sempre in considerazione che questo piano è, come dicevo prima, in realtà un diktat che Hamas ha accettato in questa fase, perché soddisfare la richiesta del rilascio degli ostaggi si poteva trasformare in una leva, soddisfando il narcisismo di Trump e dunque inducendolo a fare pressione su Netanyahu affinché Israele sospendesse gli attacchi. Tenuto conto del narcisismo e dell'egoismo della leadership americana, del resto non è detto che l'impegno dell'amministrazione americana permanga oltre l'immediato, lasciando di fatto poi Netanyahu libero di agire e dunque riprendere il disegno di annichilimento dei palestinesi che sta a cuore alla sua compagine governativa. Il futuro rimane comunque molto incerto.